nessuno. Oi Marco, buonasera. E beh, Gianmarie, oggi ho fatto altre analisi. Sono alzato presto, poi mi è venuto questo sonno il pomeriggio. Anzi, sono arrivato a casa a metà mattinata. Ho attaccato a dormire, è come che non dormissi da giorni e giorni. Sarà come, ma mi hanno tolto tre fiale di sangue, sarà quello, boh. È l'impressione. Comunque, buonasera. Beh, se ci vuole a fare questa analisi, bisogna farli, e come? Purtroppo bisogna farli, ma almeno sai cosa è, cosa deve fare, cosa non deve fare, capito? E noi siamo lo stesso, noi lo eravamo la settimana scorsa, prima abbiamo fatto le analisi, dopo una settimana siamo andati alla diabetologa, abbiamo fatto le analisi, abbiamo ritirati, li abbiamo dati e adesso dobbiamo fare, abbiamo preso l'appuntamento per fare l'ecodoppler. Poi un'altra vista, non manca la mai, l'importanza è che siamo un po' sani e possiamo andare e farli queste analisi, capito? Ma eia, anzi ti dirò, io mi sono molto trascurato, anche per gli occhi ce l'avevo da un bel po', ma non mi sono detto se non peggiora, e invece c'era qualcosa dietro, come vedi. E vabbè, adesso il referto ce lo danno il 18, insomma un po' di tempo passami. Io per me, se potessi, partirei già domani per Milano a ricoverarmi, per evitare che faccia danno a me questa cosa, che si espande, no, magari negli anni. Però sai, è già grande, più prima si leva meglio è, dai. Ma perché qua non lo fanno? E allora, quella cosa l'ha vista un gruppo di neurochirurghi, no? Di qua. L'ha analizzata e dice che è meglio andare a Milano, Roma, Milano, insomma. Perché qua ne fanno poche, ne vedono poche, invece a Milano ne fanno tante e sono già esperti, capito? Ah, e poi gli occhi, certo, cose delicate. Io ripeto, sono stato operato a tutti e due gli occhi per la cataratta, però il destro mi sta dando sempre fastidio. Certo, vado tutti gli anni, noi ci fa fare la diabetologia, ci fa fare sempre la visita, no? Agli occhi. Siamo andati e dichiarati niente, tutto a posto. Sai che sono andato a pagamento lì a vicino a Ponte Rosello, 70 euro, e dice che c'era un liquido dentro. Bene. E bisogna prendere l'appuntamento, però chissà quando si va l'appuntamento. Mi sembra che c'erano 3 o 4 mila. Poi ci hanno richiamato tramite una persona che conosciamo e ci hanno richiamato per, ma ho chissà che sia la porta buona che almeno mi tocco questo liquido e siamo a posto. Invece siamo andati, abbiamo fatto la vita di nuovo tutti e due, io e mia moglie. Dice che ancora non si possono toccare, dice che ancora sono a posto, cos'altro, mette questo collirio, poi, ma sai quanto è collirio, poi cosa va anche questi collirio. Cate, tanto queste lacrime non vogliono passare, me lo sento sempre strano, E qua se non mi metto gli occhiali non mi fa vedere, mentre con gli occhiali invece sono tranquillo, posso stare anche tutto il giorno, mi lacrima di meno, capito? Ti puoi immaginare cosa può succedere agli occhi. Eia, ma non è solo questione di occhi, tu ieri non c'eri, poi te lo spiego, pare che c'è un break, avanti. Allora, 5, 6, 7, 7 e mezzo. 7 e mezzo, radio abbastanza buona. Ah, ma sei dentro casa o fuori? Sul terrazzo? Ehi, allora andò bene. Allora, Gio Maria, non è questione di occhi, allora c'è, dalla risonanza è risultato un tumore benigno dietro gli occhi, si chiama adenoma ipofisario, è un po' grandetto, mio, è grandetto, la lunghezza massima è 48 mm e mezzo, è come un piccolo uovo, un ovetto, e praticamente comprime il chiasma ottico ed è quello che mi sta dando problemi agli occhi. E siccome è un po' bello grosso, sta un po' comprimendo leggermente i vasi sanguigni, anche l'encefalo, quindi va tolto quanto prima. E a quanto ho capito lo aspirano dal naso, entrano con le sonde, bucano, arrivano lì e poi lo aspirano o lo tolgono con le pincette, non so com'è. Capito? È l'ipofisi che si è, che ha fatto questa cosa qui. Quindi non è questione di occhi, no. Beh, chiamo un'altra cosa più. Caspita. Ed ho sentito un'altra persona dicendo che aveva questo uovo così dentro. Ma dà fastidio molto, vero? Ma vedi bene ugualmente. Beh no, io ho la parte destra dell'occhio destro oscurata, capito? Occhio destro, parte destra non la vedo. E poi il sinistro è come sfocato, come con la luce anche un po' offuscato, capito? Ed è questa cosa, no, ma non la senti nulla, solo che mi ha preso la vista e hanno scoperto che era quello. E quindi è da togliere, capito? E per quello dicevo che qua non lo fanno, è da fare a Milano, perché qua sono CPTO, capito? E allora bisogna andare là, forse è l'unica. E in certe cose è certo che sono più spiriti magari lì a Milano oppure a Roma, capito? Qua ancora siamo molto indietro, molte cose. Una volta mia moglie era sempre sembrava che come quando il maialetto per esempio lo bruci, no? Tutto rosso e così se l'è diventata la gamba così, e quando non ho capito niente. E allora ci hanno indicato andare a Roma, no? Siamo andati a Roma, andiamo all'ambulatorio, ci ha fatto la vista e allora dice: con questo mare bello che ci avete in Sardegna, ve ne venite qua, cioè, andate così al mare, dice che questa passa subito. Oia, mai voi siete andati al mare, peggio, era peggio. Era peggio, infatti non può toccare acqua di mare perché si attacca la poverina e gli fa tutta la gamba blu, hai capito? Si può mangiare, ma certe cose già le sanno fare e su, capito? Qua no, ma su li sanno fare, eh? Sotto casa mia sei, stai arrivando, se ti sto rispondendo sei, sta arrivando. Va bene, Marco. Eia, eccomi qua, ho tolto la pizza dal forno, l'ho tolta adesso, ecco perché ero assente un attimino. E quindi vedi, una cosa un po' più seria, ma niente che non si possa togliere. Certo è più grande del, diciamo è un macro, come si dice, macro adenoma ipofisario, capito? Perché io questo coso dell'occhio oscurato ce l'avevo da un anno e mezzo, e anche la vista è peggiorata nel corso un po' di questi ultimi anni. E io però credevo fossero gli occhi, invece c'era qualcosa dietro, capito? E vabbè, si fa anche questo, dai. E spero di farlo anche in fretta, così mi tolgo il pensiero. Sì, ho fatto, adesso a fare la cosa, già farla e basta. Perché più trascuri, peggio può diventare, capito? Così che è meglio il tempo, almeno sei tranquillo, tutto lì. Speriamo bene, allora vai subito, Marco. Allora falla e vedrai che tutto andrà bene. Ascolta, un'informazione volevo chiederti. Se posso, dimmi tutto. Tu ci avevi 5.500 dell'Intaca, no? Eia. tuttora. A me mi è successo un particolare, siccome io avevo tolto tutto e avevo messo dentro la scatola, e ho voluto toglierlo ieri sera, provarlo, si mi è presentato il calare 9, non cambia nulla, rimane sempre a calare 9. Cosa bisogna fare? Non cambia nulla, no. Non mi ricordo se ha il lock quell'apparecchio. No, mi ricordo se ha il tastino per bloccare. Ma ti compare sul display una chiavetta o roba del genere? Un simbolo di una chiavetta? C'è il lock, c'è. Infatti ogni tanto mi esce, perché ho provato tutti i tasti, li ho provati tutti a spegnere e accendere facendo la, come si chiama, mi rimane sempre mi esce sempre quella locca. Sì, sul canale d'emergenza è canale 9, certo, canale 9 esce, però il canale rimane, non cambia canale nulla, parecchio esce, però non cambia il canale. Evidentemente ho toccato qualche tasto che non dovevo toccare e ho capito un tubo, e non ho usato più quell'apparecchio, massimo avrà 2 o 3 ore di funzionamento, e ci ho preso 1 anno e mezzo, e l'avevo messo dentro la scatola, e ieri infatti l'ho tolto e mi è presentato, oppure ho toccato qualche cosa che non dovevo toccare, boh. Certo, può essere il canale emergenza, c'è scritto EMG, no? Però certi tasti, a quanto mi ricordo io, o li premi brevemente e ti fa una funzione, oppure usi il tasto F, function, e ti fa un'altra funzione, capito? Che quella scritta sotto il tasto, cioè sopra il tasto premi brevemente e ti fa quella, sotto il tasto premi function, premi il tasto e ti fa la funzione che c'è sotto il tasto indicata, e prova a vedere se c'è il lock inserito, se c'è il canale 9. È molto fermo, era più di 5-6 mesi era fermo. Sì, lock, infatti, lock, evidentemente è bloccato, capito? Ma è come si dovrebbe fare a bloccare quello, infatti. Ho provato, è tutta la sera, ieri sera, ma non ci sono riuscito, allora mi sono fatto un rimesso di nuovo la scatola. Guarda, magari un giorno me lo metto davanti e lo sblocchiamo. Ma anche stasera si può fare, e lo sblocchiamo assieme, capito? Casomai ci mettiamo sul 9, tanto ormai è di emergenza, cosa c'è più di emergenza? Non ascolta più nessuno lì, e ti dico che tassi premere. A fare così, adesso, ma dopo magari viene male anche, adesso no. Perché fra poco devo uscire a casa, quello è, vabbè, ma tu, eventualmente se capita lo facciamo domani sera, va bene. Eia, a domani sera, salve in primissima, tocchiamo ferro sempre, mi ci mancherebbe. Tanto non è che io lo devo usare, però mi rompe a averlo così gatto dentro la scatola e non funzioni, capito? Perché ho visto che di uscire esce, però non ricevo perché è bloccato, c'è il lock, ho capito, del canale emergenza sul 9, non esce, non ricevo, non cambia canale, anche la manopola, niente, rimane sempre. Ho provato a abbassare il tasso, niente da fare, rimane sempre inserito il canale 9. Speriamo che non sia un difetto. Anche il mio è fermo, l'ho provato l'altro giorno, si è acceso subito, funziona tutto. Forse ho toccato qualche tasto, non devo toccare, perché quando l'ho acceso funzionava. E poi, siccome l'avevo messo così provvisori, no? Volevo mettere il capo dietro, l'ho spento, Si vede che ho toccato, quando l'ho riacceso, ho toccato qualche tasto e ci viene presentato questo particolare, capito? Ecco, tutto lì. Vediamo un po' domani sera allora, Marco. Eventualmente dopo dice cosa fare e se riesco a bloccarlo. Perché c'è il lock, mi presenta sempre lock, tu quando abbassi il tasto funca, capito? Sì, sì. Eia. È capace che sia quello, dai. Quell'apparecchio ce l'avevano in tanti, Ce l'aveva Claudio un periodo, ce l'aveva Gianfranco anche, lo sai. E per pochi che siamo, varie persone ce l'avevano. Non mi serviva perché ne avevo baracchini, ma così sembrava una cosa più ansia. Volevo il 680, è quello con la scritta azzurra, invece quello lì non ce l'aveva, mi ha mandato questo, il 5500. Ma cosa l'ho usato? Poco e niente, l'ho messo dentro la scatola, perché stavo sempre l'S9 in Cobra, io, che tuttora quelli lì, ma non li uso più, sono dentro le scatole, e per cui cosa ne faccio? Non ne faccio, però. Perché devo lasciare la scatola se non funziona? Mi rompe, ecco, mi dà fastidio, alza che ci penso sempre. Infatti volevo dirtelo da ieri, ma tu ieri, anzi ieri non c'ero e per cui non so potuto dire niente. Ah, vuol dire che domani proveremo, dai Marco. Eia. Sì, 6.900. Ti dirò, a me, quando ancora c'era gente, mi era venuto il cribizio. Oltre ad avere il 5500, volevo anche il gemello 6009, in modo da averlo col display blu e col display rosso, come rossiccio, insomma, arancio, giallo, come lo vuoi chiamare. E poi ho detto, non esageriamo, dai. Adesso lo vende di nuovo FLQ elettronica, con l'azzurro. Mi piacerebbe di più, Mi piacerebbe, infatti io quello che ho è il rosso, come ce l'hai tu rosso, ma mi piace il blu, I colori blu mi piacciono parecchio, come questo che ho preso ultimamente, il presidente, quello c'ha tanti colori. E mi piace il blu, ecco, e avrei voluto quello, però ormai ho preso quello rosso e che non usa nemmeno quello lì, si è aperto la scatola, chi lo tocca più? Non saranno. Eia. Poi ho provato a far funzionare il 7.009, 9.009, tutti a posto. Ehi, 7.009 che avevo preso ultimamente. Io e Graziano avevamo preso due. E tu ce l'avevi già. Sicché abbiamo preso anche noi. Però, magari Graziano lo usa più, io ho usato un paio di giorni e poi l'ho messo dentro la scatola, ancora dentro la scatola, per dirselo. È un bel apparecchio, poi è voluminoso molto, è un bel grosso, sembra un apparecchio professionale. Eia. L'unica pecca è che ha questo attacco microfonico, come si chiama? Sì, tipo attacco telefonico, come tipo il modem, come si chiama? Ma mi sfugge il nome adesso. Noi ci hanno dato lo spezzone. Metti quello, poi metto tutti i microfoni che ci piace, capito? A noi ce l'hanno dato quelle pezze di cavetto, capito? Per cui, infatti io ce l'ho, anche Graziano ce l'ha. Eia, RG45, beh, è buono che ve l'abbiano dato. Forse l'avete preso dall'estero. Allora, su eBay lo vendono lo spezzone. Lo vendono, ma costa un bel i soldi, perché sono 17 euro. Quello spezzoncino, più altrettanti quasi di 15 di spedizione dall'Inghilterra, non vale la pena. A parte che il suo microfono esce già bene. quindi non l'ho voluto prendere, oh, troppo caro, non c'è il tanto, dai. No, noi l'abbiamo preso a Napoli, l'abbiamo preso e c'erano altre già pronte anche con lo spezzone, con quello spezzone. Sì, ce ne voleva dare uno. No, te ce ne siamo presi due apparecchi e mi dai uno spezzone solo, lo voglio avere tutti e due. Uno per me e uno per Graziano, e meno male, cioè, va bene, ci ha firmato tutti e due, là. E cosa hanno fatto? Ma mi sembra che costi sulle 7-8 euro, mi sembra che costi, eh. Da Maurizio Muratore, Maurizio Muratore a Napoli. In Italia non l'ho visto cercando. E infatti uno spezzone del genere vale pochissimo, però dall'Inghilterra ce lo fanno pagare come fosse d'oro. Poi la spedizione assurda di 17 euro, bastava fare una piccola raccomandata, 3 euro, quant'è? 3 sterline, e spedirlo. E infatti già rimane lì. Tanto microfoni esterni non mi interessa metterne, esce già bene di suo. Ma infatti, no, se veramente ti interessa, loro ce l'hanno, a Napoli ce l'hanno, capito? Ma te richiede un po' quanto te lo fa pagare, entri su Maurizio Muratore e vedo un po'. Quanto ci fa, oppure poi anche il telefono direttamente, perché noi abbiamo fatto tutto al telefono, capito? Ci hanno mandato con un contrassegno. Sì, se veramente interessa, puoi richiedere se ti fa un prezzo buono. Certo, dall'estero costa troppo, non vale la pena, ecco. Conviene tenerti il microfono su e basta. Ma tu l'hai provato con microfoni esterni, tipo da tavolo? No, non l'ho provato. Ne ho microfoni bianchi proprio. Non ho provato niente, no, non mi interessava, capito? Non mi interessava, infatti non l'ho più usato, come il 5005 non l'ho più usato. E sono sempre dentro la scatola, riposandosi sono, perché io sono fissato, sono malato, anche se non uso mi piace averli, però va, nemmeno guardarmi, poi ho messo dentro la scatola a una parte che li tocca più, Vediamo se è rientrato Antonello, se ha chiuso questo portatile. Antonello? E che ti ha risposto? Antonello, tu sei? No, non è lui. No, non è Antonello Pomponio. Infatti, non è lui. Antonello! Buonasera a tutti. Buonasera Gianfra. Parli del diavolo e spuntano le corna. Oh Gianfra, sai che Gio Maria ci aveva il 5005 e se lo trova dopo tanto inchiodato sul 9 e non si muove da lì. Se è entrato il 9 vuol dire che è entrata in funzione l'emergenza, c'è un tastino di norma che quando lo premi rimane fisso lì e non si muove neanche a palla, quindi dovrebbe ripremere e dovrebbe sbloccarlo se è quello. C'è scritto lock, se lock, però il canale non gira, non cambia canale, capito? Rimane sempre inserito, ho provato col tassino, ma non esce. Fatto deve essere bloccato, capito? Evidentemente con l'occult bisogna sbloccare l'occult, allora magari dovrebbe funzionare. Ma non è il lock, è proprio il canale d'emergenza premuto. Tu guarda nel display se c'è scritto EMG, una cosa del genere, se c'è qualche segnale, perché di norma lo fa sugli apparati che hanno soltanto. Se no, al limite prova a attaccare tutto e riattaccare, sul corrente riattacca. Ma ha provato anche a spegnerlo e allora ho spinto e ho provato col tasso fuga a vedere un po' se si sbloccava e niente da fare, niente da fare. Mesce, sul momento mesce tutta la scrittura 888, tutte le scritture, poi si spegne e mi rimane sempre il 9 sempre acceso. Ma di nuovo? Non ci sono riuscito, ieri sera c'ero un paio d'ore, niente da fare, non ci sono riuscito. Essere bloccato, c'è da essere qualche funzione che bisogna fare, io non sono riuscito a farlo, allora mi sono stufato, l'ho rimesso a posto. Ti ho chiesto se è quello nuovo, Giovanni. È nuovo, infatti nuovo, questo esatto, ci avrà un'ora, due ore di funzionamento, ce l'ho 5-6 mesi, ce l'ho. Infatti per esempio la scatola, ieri sera infatti l'ho tolto per provarlo così a accenderlo, perché era tanto che non lo accendevo. Ho provato e evidentemente come l'ho acceso e ho toccato qualche cosa e se mi sono presentato queste cose, capito? Presidente, giusto Marco, quello lì aveva? Presidente Berri, quello che ha adesso. Diciamo domani questo 5500 proviamo, gli dico cosa toccare, però non mi ricordo se l'apparecchio ha anche il lock, ti risulta che non ce l'ho visivamente presente adesso, dai. È il lock, esce il lock tu, c'è sempre questo lock di inserito. Senti, ora non si muove allora, Giovanni. Infatti per quello, come bisogna fare a sbloccarlo, che io non sono riuscito ieri sera per nessuna ragione, aspetta, mi sono stufato e l'ho rimesso dentro la scatola di nuovo. Ma tu dimmi il modello, così io lo guardo e ti dico cosa premere. HR5005, come quello che avevi tu, mi pare, no? Cosa è? Il 5005? Intec HR5005. Ah, ho capito. Aspetta che lo sto guardando come immagine, se mi ricordo dove sono stati, perché io ce l'avevo proprio. Vada fatto di brutto. Hai provato ad attaccare il microfono, Giovanni? Ad accenderlo senza microfono? No, senza microfono no. Anche come, no, mi sembra che sì, l'ho attaccato anche con il microfono, anzi pensavo che fosse, ci voleva il microfono, invece no. Ho provato con il microfono e senza il microfono. Sì, mi confermi che l'OC esattamente quello, lo stesso del Noseblanc ANL, giusto? Confermo. Ecco, io adesso non me lo ricordo bene, dovrebbe essere function e poi lock e basta, non può toccare altro. Io ho provato anche a spegnerlo e poi abbassato il function, sempre abbassato, riacceso, ho lasciato appena dopo mollato il tasto, però non succede niente. No, va acceso. Sta acceso, è una normale funzione di blocco. Premi prima funzione e dopo lock. E vedi se sparisce. Allora domani provo, va. Tomar, perché adesso non devo fare cose, se no l'avrei tolto da adesso. Va bene, grazie, già prego, già metto domani, me lo metto davanti. Evidentemente se c'è anche Marco, mi aiuta anche Marco. Ok. Va premuto brevemente naturalmente, cioè non c'è bisogno di fai tic lock, function lock, tic tic, e quella è la funzione, a meno che non sia inchiodato, no, ma se c'è il lock è quello. Ma devo premere un paio di volte lock. No, premi function e poi lock. Un clic uno, un clic l'altro, no? E basta, di una semplicità. Ok, va bene, va, proviamo domani sera allora. Ok, speriamo bene. Oh, togli, mi interessa, ma meglio il ferro sempre pronto e... Adesso mi sembra che rimanga altri 5-6 mesi il ferro lì dentro la scatola. Ma è un peccato, Gio Marie, se no ci guastano davvero, mi... Abbiamo adesso questo nuovo monogatto che me lo toglie davanti. E quelli là sono dentro la scatola da una parte che magari ogni tanto bisogna buttarli fuori e farlo scaldare appena. Ma non mi trovo più, mi trovo più bene con questi nuovi adesso. Ma guarda, anche quello è abbastanza moderno, Giovanni. Ce l'ha avuto, ripeto, un ottimo apparecchio. Niente da dirle, l'unica cosa è che come tutti gli apparecchi di quel genere le bande laterali non sono proprio il massimo, perché devi girare a destra, a centrare, poi c'è lo scatto brutto, non è lineare, per la banda laterale veramente non serve a niente, ma invece per le altre MFM e compagnia cantante va bene. Ma infatti quello lì 2005 c'è anche tutto, per cui magari prima mi divertivo, ecco, da una parte all'altra, anche in manda, però adesso non mi va più, però a ferro che non funziona mi dà fastidio, capito? Quello è particolare. C'ho questo adesso, Rosana. C'è anche il, come si chiama, che c'ha le bande laterali, è omologato stesso, la base, le 497, Intech 497 Multicon. Quello è omologato e c'ha anche le bande, anche quello c'ho, per cui non mi interessa più di tanto le bande, capito? Sì, vabbè, ma è meglio che funzioni. Comunque non ti preoccupare, Giomari, guarda, io stasera sono diventato scemo testando, cercando di trovare un tasto per accendere un tasto interruttore. Se non c'era nessuna parte, lo sai dove era, a capovolto, solo che era nero, non si notava. Quindi, va, per carità, quelle cose veramente micidiali. Eia, Marco. Eia. Sì, sono belli quegli apparecchi elettronici tipo il 5005, cioè un po' digitale col display digitale, con tanti tastini, varie funzioni, però alla fine io torno sempre solo al Superstar 3009, belle manopole, interruttori belli a scatto, niente eco, niente autoascolto, niente menate, non ha nemmeno i 10 kHz. È tutta un'altra cosa solo, dai. Mentre questi sono quei sistemi digitali adesso, se non lo conosci bene, è un rebus questi apparecchi, mentre quelli di prima funzionavano sempre, senza problemi, sapevi già che cambiare canale, parlare e basta. Mentre questo adesso, se non lo conosci, secondo cosa tocchi è un casotto, capito? Ma... No, io pensa che io sapevo usare tutto già, cioè le funzioni, basta vedere quello che c'è scritto e elementare comprenderle, solo il menu, diciamo queste voci del menu. Ricordati, funziona, va premuto breve per il lock, se lo premi a lungo compare il menu e ci sono delle sigle di 3 lettere e vabbè, quelle te le devi ricordare o guardare il manuale, perché a memoria, insomma, va bene, è un bel apparecchietto, anche ma laterale, insomma, certo è a scattini tipo, non mi ricordo se 10 Hz o 5 Hz, no, boh. Vabbè, ma manco io lo uso, quindi lo uso molto, quindi però diciamo il mio era abbastanza centrato in trasmissione, insomma davano buoni controlli, non è male come apparato. Oh, è bellino, dai, mi piace, solo se fossi attuale magari con il colore diverso sarebbe stato per me, magari era stato più bello, va. No, è un apparecchietto per il poco che l'ho usato va bene, va bene, va benissimo. E il 10Hz ce l'ha già, e c'è anche l'eco, c'è un po' di tutto, c'è un bel ricordo, vai. Sì, ecco, 10Hz, io vado a passi di 10Hz, anziché un Hz, per non stare, un Hz non so nemmeno se ce l'ha, no, non credo, per centrare, bene o male c'entra abbastanza, dai. Cosa ti volevo dire? Invece il 9009, quello piccolo, un po' più piccolo di frontalino, che poi è lo stesso apparato, ha il display a colori, puoi scegliere il colore del display, capito? Rosa, rosso, azzurro, verde, celeste, addirittura bianco, che sarebbe trasparente. Ma alla fine a me questi giochetti di luci non mi interessano. L'importante è che funzioni bene l'apparato. Poi, anche se il display è fisso di un colore, a me... L'azzurro mi piace molto a me. L'azzurro mi è sempre piaciuto. Un colore che mi attira, ecco. Sì, come questo il presidente Barri. Subito ho dovuto cambiare il colore, perché mi piace molto. Quel colore mi piace molto. Mi risalta di più a me. Poi agli altri non lo so, mentre il rosso non è un colore strano, è un colore strano, così è già fatto. Sì, Gio Maria, no, anche a me il blu è il mio colore preferito. Sì, ce l'ho lanciato da parecchio, praticamente è un tutto a cui hanno aggiunto il processore per la gestione dei canali. Tutto lì, però va bene, va molto bene. Io a un certo punto, dato che non era manovrato, l'ho proprio regalato, come ho fatto scambio, mi hanno dato un attrezzino giusto simbolicamente, e l'ho sbolognato così. Mi è rimasto solo un portatile che tra l'altro mi sono già dubbio che non sia neanche omologato dalla Intec sempre, perché non c'è l'etichetta dietro, c'è quella europea, il numero seriale, tutto quanto, però scritto omologato non c'è. Mio c'è anche la scrittura, la targhetta dietro della C, sì c'è. Forse magari tu sei il primo tipo, io è 6 mesi fa che l'avevo preso questo apparecchio, però c'è, dice omologato, però la targhetta c'è della marca, c'è. Però sai, siccome quegli apparecchi vanno anche sui 10 metri, se ti ricordi? Sì, e questo è l'H520 Plus, credo, che c'è la funzione europea, diciamo, con 40 canali, poi c'è le funzioni estere, che arriva anche a 120, ecco, premendo un determinato pulsante, ma quello lì, diciamo, oramai, non penso che me ne frega a nessuno, perché tanto con rumore che c'è in queste frequenze, e chi le usa. Però c'è la cosa che è tutto quanto, a eccezione dell'omologazione Sensi, a meno che non lo mettano più, perché la porta non è vecchio, è abbastanza recente. Sì, omologato, l'ho avuto anch'io. È nero ed è AMFM, una porcata è. Io l'avevo regalato, ho venduto a Pomponio, svenduto a Pomponio mi pare. Mamma mia, era bello il 520 magari, quello col display grande, ma alla fine siamo sempre lì. Cibo da mensa. No, questo è il 520, quello grande, la stessa versione c'è Marina. Ah, sì, c'è il Dolphin, versione... Sì, quello è già più bello. No, io ho avuto il 512 Plus, ti assicuro che era una vera boiata, proprio. È stato il mio passaggio, quindi non so dove buttarlo, prima era buttato dentro un coso, adesso è qua, adesso ce lo ributto da qualche parte. Vengo col sacco sotto casa tua e lo butti nel mio sacco. Guarda, se posso regalare la roba che ho regalato, altro che quel portatile, proprio a prezzi, ma neanche per soldi, proprio tu mi dai una cosa così, che può essere utile, io ti do quello, ma senza password senza guadagnarci nulla. Molti li ho regalati, volevo dare anche qua un apparecchio digitale che oramai non è più, per me non va bene, quindi, però tranquillo, dai, non ne voglio neanche regalo. Invece a Pomponio gli ho dato un mattone della Intec, proprio un mattone perfettamente a parallelepipedo, no? Ci ha messo l'antenna, non so che antenna sia, se elicoidale oppure lunga, e sta funzionando. Vediamo se c'è Antonello. No, non c'è. Quelli vecchia maniera, con l'antenna 1,20 o 1,30, non mi ricordo. Però l'antenna si era rotta, lui l'ha sostituita, non so con cosa. È così, funziona, era anni fermo, pensa. Non ce l'aveva poc'anzi quell'apparecchio, stava a chiedere il controllo. Esatto. Stava uscendo bene. Eia. Non so che antenna abbia messo, ma penso elicoidale, non lo so. Ci vuole un'antenna della lunghezza giusta per uscire bene. Meglio che sia che funzioni ancora, tanto a me non serviva, gliel'ho regalato. Ehi, hai fatto bene. Ehi, se no non l'ho regalato anch'io. Certo. Prendevo l'apparecchio, stavo per un poco, però ottenevo dopo che ne uscivo un altro più bello, ma quello lo regalavo e me ne prendevo quello nuovo. Quindi sempre così sono stato io. Lui, per carità, quanti soldi buttati che... Vabbè, là. Un attimino, mi assento, Marco, riprendi qui, rientro con l'ubrecchio, ok? Eia. Stasera non è entrato nessun altro, va. Così ieri c'era solo Giulio e chi era l'altro? Ma non me ne ricordo nemmeno. Oh, Marco! Eia? Adesso guardo, anche se probabilmente c'è la batteria a terra, attacco, vediamo se funziona. Col portatile se ti chiamo, con l'antenna ovviamente grande perché con la sua non arriva neanche a 10 metri. Sì, prova. Attenzione Marco, mi senti? Sì, ti sento. Sto abbastanza bene. Non so neanche, aspetta che abbasso l'altro, non so neanche se la cosa della batteria non scarica di più perché sono mesi che non lo uso. Però non vedo se è alta o bassa potenza. Guarda, sei 9,20 oltre il 9,20 sei. Segnale buono, potrebbe essere alta. Sì. Forse è alta, vediamo qua. Sì, per essere la batteria già va bene, dai. Niente. Un po' scomodo perché l'ho collegato dove l'ho collegato l'altro. Sono un po' piegato, però adesso vorrei stacco ci metto l'altro perché sennò è troppo pesante, poi magari scalda pure. Eia, lo vuoi provare in FM? Pronto? Sei sparito. Oh, vediamo un po', Marco. Eia, ma l'hai già staccato? Aspetta, c'è il volume basso. Questo è un pochino più alto dovrebbe essere, no? Ma di poco. Abbastanza più alto, ma l'altro usciva bene per essere un portatile. In confronto il 512 Plus era una ciofeca, era proprio... era cacca, meno di cacca era. Poi lì gli davano l'adattatore per accendisigari, l'adattatore per mettere l'antenna veicolare. Quello l'ho corteggiato a lungo, poi è uscito di produzione, amen. Infatti. Allora, questo sono 4 watt e mezzo, quindi quello sta uscendo con 3 watt, ma c'ha le batterie proprio tutte mai ricaricate. E cos'ha? Stilo ricaricabile o pacco batterie suo? No, ricaricabili, però non pacco, c'ha le durate, le ultime, le migliori. Cioè effettivamente sono le migliori perché se reggono così senza caricare vuol dire che fanno il loro rovesto. Quelle sì. Dura c'è l'energizer. Io non so perché sono più simpatizzante delle energizer. non lo so, la forma, il colore più che altro, non lo so. E poi mi era sembrato che le Duracell una volta in un apparecchietto avessero il positivo, no, la capocchietta, il positivo un po' troppo lunga, non riuscivo a farcela entrare, ma magari era un apparecchietto cinese, quindi le misure sono strane, no? Sì, ma poi sono così, capito, non è che gli apparecchietti lasciano tempo, le batterie dure sono le migliori perché ovviamente sono le più, sono anche le più care, ma molto care, però se voi costa una batteria perché la devi lasciare per molto tempo, buona, spendi più in più, però sei tranquillo, quelle soprattutto verdi, quelle pronte all'uso immediatamente appena le compri. Ah, ma sempre ricaricabili però. Sì, e beh, sì, io parlo solo di ricaricabili, di quelle normali a carbone o a caline, quelle no, chi le ha più usate. Ah, ecco, no, credo stessi parlando di energia, di Duracell alcaline. E io più che altro quelle le metto in apparecchi che devono tenere le batterie per secoli, radioline, MFM, così, capito? Poi c'è roba che usi molto, che usi spesso, preferisco le ricaricabili. Quasi quasi avrei fatto una prova, se tu non scappi subito faccio una prova anche. Con cosa? La batteria? No, un apparatino portatile sempre. No, sono qua. Aspetta un po' che cerco lo spinotto, Non trovo. Vabbè, Gianfra, tutto è contro di noi. Non trovo l'adattatore da PL a RCA. E non lo posso provare. Ce l'avevo, ma è stato inghiottito dal tempo. No, devo farti sentire quel portatile in valigetta, sai, quelle cose emergenza, no? Il Maxcom 7 della Maxon, che dura tuttora dopo 86, 96, 2006, 2016, 32 anni. Peccato che non ti ascolta più nessuno, oramai se chiedi emergenza qua. E che ti sente? Eia, praticamente c'è il portatile, nudo e crudo, è di colore bianco, guarda, se cerchi lo trovi, ha una custodia in finta pelle, diciamo in cartone pressato, ma fuori è un po' lucida, potrebbe sembrare pelle. La custodia fa da porta batterie, ce ne stanno 10, poi l'antennino si avvita sopra, è un antennino lungo una cosa media, forse 70-80 centimetri. Il resto dell'antennino c'è una spirale dentro, credo. Quest'antennino lo puoi togliere invece dal portatile e applicare alla base magnetica e usartelo in macchina. Ti danno anche la presa accendisigari. Guarda, cerca Maxcom 7. Sì, già lo conosco. Non è quello che c'aveva il PTT rosso grande davanti? Esatto, funziona ancora, ma porca miseria, chissà dove è finito lo spinotto, anche perché va acceso, lasciato un po' funzionare, se no addio. Che posso dire? Niente, l'adattatore non ce l'ho, qua nemmeno c'è. E vuol dire che lo prenderò da Fugiaro, dai. Lo userò altri giorni. Questa è una modulazione molto brillante, un po' acuta anche, bella squillante. Io l'avevo visto da Pomponio, mi era piaciuto tanto, non l'ho comprato io naturalmente, ma mamma, perché all'epoca lì avevo il potere economico. È un bel apparecchietto dopo tutto. No, già andavano. L'unico problema magari era che adesso non esiste più la trauma di disturbi, di splatti, ma oramai, con tutti questi omologati stretti, poveracci, per stare dentro le regole, quindi non c'è neanche più quel problema. E così. Comunque era discreto rispetto alle antenne caricate di adesso. Peraltro, credo di aver ritrovato la concessione, infatti, che avevo smarrito. Siccome avevo fatto più copie, no? Per emergenza, ho ritrovato la concessione che avevo smarrito tempo fa, ed era qua dentro, perché me l'ero portato a Porto Torres, mi pare l'estate scorsa, e avevo portato la concessione dentro la valigetta, eccola qua. Vabbè, ok. Nella base magnetica, siccome l'antennino appunto è relativamente lungo, nella base magnetica, avevo provato a vedere sotto com'era, c'è una spirale di rame piatta, un po' larga, in modo da, penso, raggiungere un ottavo d'onda, no, per l'antennino, perché sennò, sai, 70 cm sarebbe corto, non risuonerebbe. C'è una spiralina in modo da, credo, avere almeno l'ottavo d'onda. E vabbè, lo proveremo un'altra volta, dai. Sì, poi l'ho testata proprio con l'antenna, no? Con la caricata, con la carichetta di questi posti dopo HF, un po' portatile, che proprio c'era attacco BNC. L'ho messa nell'analizzatore, ma mi ha detto che è uscita la scritta, quello bene, metti ti all'asino, tu hai fatto antenna. Pensa che c'era un negozio, di cui non ricordo il nome, che vendeva antenne stilo per portatili. Queste antenne erano di quelle tipo ottavo d'onda, no? Metro, solito 1,20 m, 1,30 m, aveva forse una bobinetta centrale anche, la solita carichetta centrale. Però non ricordo che negozio era, ma penso che ormai non ne abbia più, non esistano più, perché aveva l'attacco SMA, mi fa, no, BNC. In teoria un portatile come il tuo potevi mettere questa antenna e aveva un'antenna, un ottavo d'onda effettivo, come una volta. Ma vado a trovare il negozio adesso. Non era Cristianini, che Cristianini non c'entra, quello fa roba, roba di sicurezza antinucleare in EBC. Vabbè, pazienza. Vabbè, ma mamma. E così. Ma io invece stavo pensando, c'è anche del caso, però è un... come si chiama quello? C'è quello per telecamere. Non so neanche se sia buono oramai. Poi che ho averci buttato un bel po' di cavo 213. Non serve a niente, non ricordo che l'ho bognato. E poi c'ho del cavo stracostoso che è dell'antenna professionale, si è buttato da una parte senza usare il nuovo, ne ho preso credo 100 metri, i 100 metri di cavo messo ai paloni, doppia guaina, corazzata, portare anche sott'acqua. Quando volevo ancora mettere, quando ci avrò tempo, cioè mai, lo sto ancora sotto fuori prendendo acqua e tutto. C'è corazzata e anche antispillo, eh? Per i vicini che spillano le antenne, i cavi voglio dire. Quello bel portatile, bel mattone, caspita, però cioè, in che occasione te lo porti per ragione del genere? Ti pilano per pazzo in strada. Va bene, quindi da acquistare un adattatore, ok. Peraltro la Intec nel catalogo dell'86, nel 1986 aveva venduto lo stesso apparecchio, versione omologata, identico in tutto e per tutto, però 23 canali. Il nome non me lo chiede, ma era uguale al Maxcom, però 23 canali, o 84 addirittura, un catalogo vecchio. L'aveva fatto uguale, ma breve tempo, infatti non ne trovo in giro, mi pare. Non ne trovi. No, io oramai dico la roba. La roba è tutta... Se ci penso quanta roba vecchia, poi chissà dove è toccata. Ci vorrebbe un altro caso a fare pulizia, volta. Poi io... A me è di vecchio nel senso di datato, ma è rimasto solo un portatile piccolino, che però è destinato a morire, poveraccio, perché c'erano le batterie a litio, che è veramente piccolo, si chiama il Baofeng, quello che si assomiglia ad un Yaesu Wix, insomma quello microscopico. L'UV3R? Dovrebbe essere quello. Siamo in banda analogico, ma non è buttato lì, è che la piacesse. Ma guarda, bene andando dovresti trovare ancora le batterie, quello era il primo uscito di quelli piccoli, poi è uscito uguale, però con due righe di display, l'UV3R Mark II, molto carino, forse ci trovo anche tuttora, con le batterie le trovo. Poi hanno fatto l'UV3R Plus, che era già più grande, non aveva più senso. Ne ho avuto talmente tanti che non vorrei ricordare più questi diversi apparecchi, guarda. C'avevo poi. Molti li ho presi là, in via Montegrappa. Molti li hanno presi. Guarda la propagazione. Via, hai detto? Spagnoli, mamma mia. Sono a carica. Via Montegrappa, dove adesso credo che c'è l'agenzia funebre, è possibile. Via Montegrappa chi c'era, boh? Chi se lo ricorda. Erano proprio uno scavuzzino, piccolino. Vabbè, tanti anni fa. Fa anche molto, solo io perché era già anziano. Allora, noi siamo sul 23, aspetta che faccio una prova con l'alimentatore antennino, non credo che li arrivare comunque, c'è pure propagazione. Beh, con l'antennino poco ci credo, con questo qua arriva 9. T'ascolto, ma sei in mezzo al QRM, proprio, sei S2, ma basta un colpo di volo lì che ti sotterra. Adesso è aumentato un pochino il QRM, prova a spostarti in zona più favorevole. Ma quello ce l'ha l'FM, non credo. Marco, 1, 2, 3. Aspetta. No dai, ho usato all'esterno, dai, non. Pensa che non ti sento nemmeno qua, col portatile. Poi dentro casa non fa. Caspita, se avessi potuto raggiungere la finestra, mannaggia, ma non. Senza le batterie non fa, dai. Ma tu non mi sentivi, perché io ti ho sentito quando c'era poco QRM, poi si è alzato e ovviamente ti ha coperto. Non mi sentivi per niente. No, sento il segnale bassino, però da qua dentro dai non fa. Mannaggia la miseria, dai. Se avessi batterie cariche, ma alla fine non sono mai cariche, qua ce ne vogliono dunque da 1 e 2, 10. 10 accumulatori. La faccia, una centrale elettrica. Mi pare sia 10 posti, se non ricordo male. Ho 8, adesso guardo dietro, apro la custodia. No, quello funzionava così, 10 batterie ricaricabili. No, aspetta, erano 8 ricaricabili. E di quella normale non me lo ricordo, comunque andava dai 12 ai, se l'altro erano 1,2, quindi sono 10, quindi per le ricaricabili 10, per le altre ce ne volevano 8 credo, per quelle alcaline, da. Esatto, allora qua 10 posti, quindi se metti da 1 e 2 fai 12 volte. Solo che come fai a eliminare? Io una volta avevo dei ponticelli metallici per eliminare la batteria, per eliminare un elemento, non so se ne vendano ancora, però non li trovo più. Vabbè, ma io vendo un sacco di accumulatori, userei quelli, batterie ricaricabili, no, nickel, idrogeno, infatti. Convengono quelle a fotoniche carnio che non valgono niente, quelle nickel e metaidride, o magari se fa una modifica un paio di quelle piccole a litio, ce ne vorrebbero circa 3, che sono da 3,7, a volte raggiungono anche 4, quindi sarete a posto. Comunque arrivi, è bombaccio ma arrivi, dentro casa vabbè non si possono fare, Santenna quanto può essere, vediamo, le mattonelle qua sono da 20, 2, 4, 6, 8, sì, 80 centimetri di antenna, naturalmente poi come nella base magnetica c'è una specie di, non ho mai aperto, ma c'è una bobinetta, insomma, qualcosa per raggiungere il canone di quarto d'onda. Va bene, e un giorno che mi carico gli accumulatori me lo porto sul tetto del bandiera gialla e voglio vedere. Così se fai tipo quelli televisori che ci sono dentro ti buttano da lì. No, a proposito di accumulatori, io mi devo controllare quello che c'è in carica, c'è una batteria della PC che sta ricaricando, non volevo vedere a che punto era, ma penso che ci sarà un tre ore almeno a caricare. Ecco, sì, so perché, ma io ho un medio spinotti, certo, non tantissimi, ma ho abbastanza spinotti, adattatori, certi sono doppi, tripli, tipo, non ho capito perché ho queste da PL femmina, che sarebbe il 239 a jack 3.5 mono, non so che apparecchio servissero. Proprio quello non lo trovo più, probabilmente l'avevo portato in macchina, no? Per usare sia un'antenna sia l'altra antenna, cioè sia quella originale, no? Che è un po' così così, dai, e sia l'antenna vera veicolare da una 60, base magnetica, è un altro mondo l'antenna normale del baracchino in macchina, l'antenna veicolare vera e propria. Va bene, adesso lo spengo, lascio un po' acceso tanto per così. Va bene, già lo proverò in altre occasioni, cercherò di caricarmi tutti gli accumulatori, lo proverò da un punto elevato quando mi capita, non lo so, qua tanto la gente è talmente poca che non trovi la coincidenza a fare prove, dai. Ok, boh, sta come abbiamo questo. Devo comprare i pedali, perché non ho andato una bici, ma c'ho questi pedali che fanno cagare, sono pesanti, c'è l'accidente, non servono a niente. Io la bici, caspita, spinto da mia madre, l'avevamo presa un po', ma poi rivenduta subito dopo. Mamma mia, no, per carità, a malapena riuscivo a pedalare, non proprio, è passato troppo tempo, dai. Mai dire mai, io ne ho tre, di cui una va corsa, va con un mago, che però poverina è anni che non la uso perché c'è sempre il pericolo di essere branciati da qualche delinquente, quindi sono passato con mountain bike, che sono più sicuro perché almeno se capita un pazzo, a me sono capitati tutti i colori. Ma in caso di necessità posso sempre farmi in cunetta, buona passi. L'ultima che l'ho fatta oggi, che è un e-bike, quindi c'è la sua batteria, anche se rimane una bicicletta sportiva a tutti gli effetti. Di quella la può usare chiunque, anche uno preparato, perché ti aiuta. Chiaro che chi è più allenato usa di meno il motore, o lo esclude, mentre gli altri lo possono mettere a due, a tre, se va bene, stai dietro a tutti. Comunque, o uno è sportivo o non lo è, come nel mio caso. Aspetta, si sta impoverendo anche questa frequenza, tra ieri e oggi. Vuol dire parlerò da solo. Quando non c'è nessuno comincia a parlare da solo, tre canali e l'altra buona che mi interna, no dai. Sei come me che parlo da solo in tua casa, in una casa. ho speso molto, ma almeno c'ho le radio che mi rispondono da sole. Lo fai come il paletto balcone, parla col muro. Ciao Bacchisio, eia, parlo col muro, sì. E alla fine arriveremo a quello, dai, ben entrato. C'era Gio Maria ma ha dovuto andare via da un po', doveva fare non so cosa. Sarò qua. Ma c'è anche un altro amico, non ho capito chi è, avanti. L'ho sento un po' male, mi ha detto chi ero, se non sbaglio. Franco, Gianfranco, da Sassari. C'è anche Gio Maria, Gianfranco, buonasera, mi ascolti bene adesso? Sì, a sentire, il segnale andrebbe anche bene, la radio è molto cupa, molto barattolata. Non so se sia il tuo tono di voce o se sia per qualche altro motivo, non lo so. Ti mando avanti Gio Maria che è rientrato adesso. Riprendi Gio Maria. Ok, salutiamo il signor Bacchisio, quella buonasera. Beh, sentito, corretta. Oh Marco, ho riacceso quell'apparecchio, però ho provato, non me lo danno. Ma può darsi che sia da resettare pure, solo che resettando cosa comporta, non so se non dovrebbe cancellare i canali. Vabbè, male andando, ho il file pronto per quell'apparato, si riprogramma. E come mai? O sei proprio inchiodato nel vero senso della parola? Ho provato, infatti ho provato il Pung, poi il Locto e scompare sì, però dopo rientra lo stesso. Aspetta, io lo sai come puoi fare, so che ci vuole il cavetto, lo colghi al computer e guardi che impostazione c'è, la cogli del tutto, cogli proprio il canale. E prova già, dai, Radio Gazzetta, riprendi Bacchino. Sì, buonasera, Gio Maria, ben ascoltato. Dopo due secoli sentiamo Gio Maria, vabbè, anche io ero bandito questi giorni. Sei bandito, addirittura. Oh, noi ci siamo sempre, ieri magari no, ieri ci avevo da fare perché c'era la gente, non ho acceso, però stasera già mi vedi, quindi mi sentate un pochettino, stasera lo tolgo, vediamo un po', a provare quella la faccenda, c'è sempre, il canale 9 inserito Marco, la frequenza 27.064, vado a cambiare canale, invece è sempre in lock. Perché sta, ho stato per essere una, però non penso che sia cosa grave, mi da conoscere, ho capito Bacchi, ma no, niente di grave, adesso Gianfranco guarda il computer e vedo un po', a provare a ricettarlo, a vedere un po', non lo so, bisogna spegnerlo e abbassare il tasto, contemporaneamente accenderlo dopo. No, Gio Maria, io ti ho detto che quello va, ci vuole il cavetto internamente, soprattutto il tappo, certo c'è anche fuori la presa, diciamo la presa a tre piedini, la colleghi di lì e poi col computer, col suo programma, lo riprogrammi semplicemente, capito? il problema dovrebbe risolversi, ma è strano che lo faccia, secondo me sta sbagliando con i primi pulsanti nella sequenza, perché anche io mi confondevo, ha posto il premere quello di sotto, magari premevo quello di sotto, non c'entrava un tubo. Prova un po' a mettere il Roger Beep, a toglierlo, a vedere se quelli funzionano, perché se quelli non funzionano allora c'è più un problema di processore. Sì, Marco, con le batterie? Allora S5 Marco, vediamo se Bacchizzo ti sente, lo senti Bacchizzo? Lo sento, ma lontano. Benissimo, ti sento, sì. Freddy segnale sì, la radio non è che sia assoluta, ma evidentemente qualche portatile, perché ho mangiato spinaci a pranzo. Comprensibile, io la capisco senza problemi. Comunque, per essere un portatile dentro casa, non so a che piano sei, però insomma, bisogna contentarsi. E allora vatti per bene. Però Gianmarì, sto con un antennino, non so se sia in gomma o di quelli che scoppi, ce ne avanti. Beh, va bene, la radio è bella, stanza pulita e chiara. Non è forte, però si sa che il portatile è con l'antennino suo e anche... Va benissimo, va bene Marco. Marco lo riprende e riprende il signor Bacchino. Correme, Marco, non ascolto perché sei molto correndo. Capito, allora sei in lavorazione col burattino. Anche questo qua deve fare lo stesso lavoro. Spegnere e riaccenderlo, poi non mi ricordo quale tasto devi abbassare, mentre che spegni e accendi, devi resettare. Vabbè, bisogna resettarlo, sì, ma è cosa... Il primo tasto è senz'altro è quello lì, spegnerlo, però dopo se c'è qualche altro tasto non lo so. Adesso certo che c'è un cosa vuol dire? Da Franco magari le sa queste cose, io no. Magari ci ho lavorato più sopra. Questi nuovi sono, diciamo così, se non c'è il cervello non è una trappola. Tornato, Allora, avevo messo l'alimentatore in gabinetto ed ero affacciato alla finestra del bagno, anche se avevo poco spazio perché c'era la finestra in fuori, come dire, la serrana in fuori e c'era il metallo della montatura, capito? Però bene o male, la Gio Maria era fortissimo, a bomba veramente. Gianfranco più basso, Bacchisio ancora più basso, dai. Allora eccolo qua. Allora Gianmarì, per fare il reset di quell'apparecchio praticamente devi spegnere la radio e mantenere premuti i tasti function e scan, quindi scanner e function. Mentre tieni premuti devi accenderla. LLC, poi il display fa un'indicazione res. Che ripristina tutta l'impostazione di fabbrica. Capra, ho capito, va bene, bisogna spegnere l'apparecchio, abbassare il tasto funke, l'altro tasto qual è? Function FUNC e scan SCAN, capito? Tutte e due contemporaneamente, poi accendere la radio. Ma gli cancella la programmazione? No, le ritorna l'impostazione di fabbrica, che è quella con cui li vendono praticamente. Sì, ma non sarà 28-30, no? Quella è di fabbrica. Non lo so, nel caso poi bisogna riprogrammarlo. Io ho il cavetto e ho il file di programmazione già bello e pronto, che fa tipo da 26,3 a 26,3 MHz a 30,105. Sì, vabbè, quello è risolvibile, dai, non è... Fa l'operazione, magari gli mantiene le tre bande, adesso non me lo ricordo bene, però tutte le bande ce le dovrebbe avere, non ricordo male, anche se magari inizia dal canale 1 e sale su fino a 29, dipende. Vediamo, sì, perché quello in origine, già lo sai, no? 28, 30 dovrebbe fare. Poi programmandolo. Ci è voluta anche una settimana per programmare, devi programmare canale per canale, capito? Prima volta è un po' una seccatura. Poi salvi il file, male che vada, ce l'hai già pronto. Il problema è dov'è? No, fallo. Il programma suo è fallo lavorare. Non so, vedi tu che Omari quello che vuoi fare. Si sta contattando, non mi ricordo, sto leggendo qua, vedo un po'. Si sta contattando, qual è? Allora, guarda, è molto semplice, sono i primi, tutti e due, a sinistra. Function è quello di sotto, che è scan. Se guardi, sono tutti e due, uno è vicino al 5, praticamente, della scritta, e l'altro è vicino al 0. Però sono tutti e due, uno sotto l'altro. Ok, un attimo che provo, riprendi, ma... Sì, provo. Cioè, va bene. Allora, Gianfranco, con la Q come senti? Sì, ma mi sa che è la tua voce così, non credo ci sia rimedio. Marco, la tua voce è così sempre, vero? Sì, ho sempre il naso mezzo chiuso, a parte che ho il setto deviato, un setto nasale deviato, quindi sono tutto deviato, anche sessualmente, capito? Non tu, Bacchisio, dicevo, la voce. Bacchi? Non mi ascolti, Marco. Sì, come gli altri giorni, dai. La voce è quella, io naturalmente ti ascolto un po' più acuto. Meno cupo, perché questo baracchino riceve un po' più acuto, riceve tutto un po' più acuto. Se avessi messo un altro baracchino ti avrei sentito con toni più bassi, un po' più cupo, capito? E qua non è male, dai, qua è passabile con questo apparato, dai. Forse l'apparato allora è malato, questo qui è nato così, è nuovo, non c'è neanche un mese di vita. No, ma è capibile, non ti preoccupare, è capibile al 100%, almeno qua. Posso? Vai. Ok, ho risolto tutto, Marco, là. È ritornata tutto a posto, infatti, e funge con lo scan. Riaccenderlo e si è messo a posto. Va tutto bene adesso. Ma ti compare la 27? Sì, 27, 255, compare tutto come la prima, è normalissimo. Oh, sono contento, dai, hai visto che Gianfranco ne sapeva anche di più. Marcello, guarda, non sono riuscito, ieri sera mi sto girando, mi ha girato proprio la testa, più di 2 ore c'era nessuno, non sono riuscito a farlo. Pensi che adesso infatti, come ha detto Gianfranco, certo, è a posto, tutto bene, sto parlando con quello adesso, su 23, è a posto. Buono, buono, anzi ti dirò di più, qua lo dico, qua lo nego, certi apparati hanno due reset, uno è il reset normale che è senza cancellare i canali per ripristinare eventuali blocchi, l'altro è il reset totale che cancella anche le frequenze. Comunque quell'apparecchio può funzionare in vari modi, 28-30 oppure 26-28, credo sia il tuo caso, oppure programmato manualmente a scelta, dipende dai 25-28, cioè 25-29 oppure 26-30, capito? Vabbè, meglio così, dai, però usalo di più, senza quell'altro, cazzo. Ma io l'ho dovuta accendere così ieri sera proprio per farlo scaldare un pochettino, perché era più di 6 mesi fermo, capito? Adesso stavi da faccia, il caso il figlio che lo metto dentro la scatola, ce l'ho già quello, il piccolino, mi trovo bene con quell'altro, dai. Gianfra, grazie. Figurati, Gio Marì, per così poco, non c'è problema. Io mi devo allontanare, non so, anche perché sono quasi le 8, devo controllare la batteria se è carica. E quindi poi vado direttamente a cena. Grazie per il QSO e a domani se ci siete. Ci sentiamo. Io passo in corretti. Ciao Bacchisio, ciao Marco, ciao Gio Maria. scappo via. E riprendo io allora, ciao Zaffra. Buon proseguimento, buona cena, a domani se coincide. Tu hai il bacchino. Ciao Gianfranco, buona serata, buon colleghi, a domani se tu coincide, sentiamo. Beh, avanti Marco. Eia, ciao Gianfranco, buon tutto. Ci sentiamo un'altra volta. Gian Maria, sono contento che hai risolto, dai. Sono contento che hai risolto e meno male che non ha cancellato i canali, dai. Ok, buono così, però in scatola, poveretto. Nel soffre, dai. Beh, allora sai che poc'anzi ho toccato un tasto, sono spariti tutti i numeri della frequenza, tutta la frequenza. È diventato un po'. La luce era poco a poco, boh, insomma, rovinato più, ho bruciato tutto. Invece ho rifatto un altro giro di tasti ed è ritornata alla frequenza. Beh, è rimasto come era prima. Adesso che invece che Gianfranco mi ha detto quel particolare sta funzionando perfettamente. Per cui adesso mi tranquillo, perché se io ho una cosa che non mi sta bene, sai, mi dà fastidio e non mi fa dormire. Sto fatto così, deve essere, la cosa deve essere sempre perfetta, se no non dormo. E purtroppo più forte di me è Marco. Eia, sì, allora quell'apparato può spegnere il display, non dei canali, il display a cristalli liquidi, cioè lo spegne e rimane solo la luce, la lucina, oppure puoi spegnere solo lo smitter, capito? Puoi spegnere solo lo smitter che è a tacchette, oppure anche il display. Non so perché gliel'hanno messo, ma gliel'hanno messo. E infatti, già mi sono accorto che è stato fatto niente. Per lo sfogo l'ho rovinato tutto. Vabbè, non monopolizziamo, dai, vediamo un po', Bacchigio, dai. Bacchi, avanti. Bacchigio riprende, ma vi saluta perché è arrivata l'ora. Ciao Gian Maria, grazie della piccola chiacchierata, anche per Marco. Ciao Marco, salutissimi, a domani. Se tutto coincide, vi auguro ancora buon consiglio, ma chi se passa in QRT. Ascolto Filolino e poi chiudo tutto. Ciao ciao a tutti e due. Ciao Bacchi, buon proseguimento. Allora, saluto in casa, a domani se coincide. Saluto lì, vai Marco. Ciao Bacchisio, buon tutto, buona cena, buon proseguimento di serata. Alle prossime. Sono le 8, mi sa che anche noi chiudiamo, dai. Gira, tanto. Va bene. A me non ci va a posto, tra l'altro ho rimesso tutto la scarpa. Dopo me lo vado a cena. Va bene, sono contento, perché ci stavo pensando tutto il giorno, non ci credo. Ero in campagna oggi. Lavorando, però ogni tanto mi veniva in testa, ma cosa sarà, cosa cavolo ho fatto io, ci stavo sempre pensando, però abbiamo risolto tutto grazie a Gianfranco. Ok, d'accordo Marco, allora buon proseguimento, buona cena, salutoni a Liu e ci sentiamo domani, se Dio vuole, ok Marco? Eia, un attimino che arrivo a salutare Liu. Ehi, un attimino, eh. Ecco qua. Allora, ciao Gio Maria, per cui? Per cui? Perché lo ripeti spesso, dai. Saluto io da Liu, dai. Ok, grazie Liu, ho ricambiato tutto, dai. Fammi bene, buonanotte, a domani, ciao Liu. Ehi, ciao ciao a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Marco, chiudo.